onde io bugilammo mainkan lagu gilammo tu onde io bugilammo mainkan lagu gilammo tu hitam bakile kudo palang pasangan ben di bugilammo urang mali onde iyo bugilammo mainkan lagu gilammo tu onde iyo bugilammo mainkan lagu gilammo tu rami urang kapacu kudo rami de anak mudo mudo tasira darah di dado pasopo yo jando onde iyo bugilammo mainkan lagu gilammo tu onde iyo bugilammo mainkan lagu gilammo tu onde iyo bugilammo mainkan lagu gilammo tu onde iyo bugilammo mainkan lagu